Zeitkreuzer che si dilettano, forse non è proprio il termine esatto, questo con una delle materie più scottanti del Novecento, ovvero la musica di Karlheinz Stockhausen, in questo caso con set di Segel Zurzonne, e beh, un lavoro che, come dire, probabilmente dà veramente il via insieme a Himnen e quella serie di inni che Stockhausen comporrà, quindi creando anche una partitura e lavorando sul mixaggio dei vari inni modulati elettronicamente e creando una sorta di inno internazionale, anche qua uno dei grandi disegni utopici appunto di Karlheinz Stockhausen. In questo caso l'abbiamo ascoltato con Zeitkreuzer, che è uno degli ensemble d'avanguardia, forse l'ensemble più importante di avanguardia per quanto riguarda anche tutto il lavoro che stanno facendo proprio legato alle musiche dell'old school, come la chiamano loro, questa serie dedicata tra l'altro a James Stanley, a John Cage, poi lavori eccezionali legati a Metal Machine Music di Lou Reed, White House, quindi anche altro che compositori, insomma, a gente poco affidabile, nel senso della parola, che ispira poca fiducia, come appunto il progetto di White House, grandi guastatori, e poi appunto un omaggio e un modo di eseguire tra le musiche insomma più evocative, tra le più potenti del secondo dopoguerra, quella appunto di Karlheinz Stockhausen, soprattutto di quel periodo dalla fine degli anni 60, quando poi tra l'altro buona parte di quelli che verranno conosciuti come la generazione cosmica, i corrieri cosmici, andavano di fatto a scuola, si potrebbe dire proprio così, anche perché è vero, andavano a lezione da Karlheinz Stockhausen, come d'altronde ci andarono anche i Beatles, che l'hanno incluso dentro Sgt. Pepper, e anche qua appunto, come dire, il pop che viene influenzato dall'avanguardia e viceversa, un giro che comunque sarà uno dei momenti più esplosivi in termini sonori, musicali, di linguaggio in generale, con tutto appunto quello che in termini di arte, società, arte, vita, questo porterà. E ce l'andiamo pure a prendere senza l'esecuzione di Zeitkreuzer in questo caso, ma direttamente proprio da lavoro molto complesso. Va da sé insomma che i lavori di Stockhausen non siano particolarmente semplici, ma non perché si voglia essere complessi, non perché è bello così complicare le cose. Karlheinz Stockhausen, prima lo citavo, ad esempio, veramente il mixaggio di inni fa uno dei suoi grandi capolavori, Himnen, quindi cioè, non è che stiamo trattando di faccende particolarmente esoteriche, di appunto inni che venivano mixati insieme e modulati per creare una sorta di inno mondiale, ecco, l'umanità. Tanto per citare uno dei grandi dischi che influenzò tutta la generazione cosmica. Stockhausen, la scorsa volta l'abbiamo citato come una sorta anche di momento, di monumento, anzi più che momento, legato alla neo-vanguardia, quindi anche con quel po' di timore reverenziale che si ha rispetto alle musiche e anche al personaggio che era Karlheinz Stockhausen. Ricordiamo tra l'altro, tra virgolette, che Karlheinz Stockhausen iniziò dentro il piano bar, quindi, e poi tra l'altro chi ha avuto la fortuna come me insomma di vederlo era piuttosto anche affabile come personaggio, se non che insomma anche con una certa propensione anche per le cose belle della vita, ecco, mettiamola in questa maniera, quindi non vi immaginate personaggi che a appena insomma vi incrociano con lo sguardo, vi bruciano e non ce n'è per nessuno, non è vero, non era esattamente così la faccenda, come d'altronde anche tante musiche di Stockhausen, seppur appunto passate magari attraverso quello che poi è stato per molti anni, cioè, leggendo i libretti d'opera, e cosa si fa? Si entra dentro l'opera, quindi non si capisce perché un pezzo debba per forza insomma arrivare direttamente. Bene se succede, ma altrimenti si può anche fare un pizzico di sforzo e arrivare appunto anche musiche che poi danno grande anche dopo, grande soddisfazione, anche proprio parlando in termini molto semplici. E una dei momenti più tra virgolette strani di Stockhausen, uno che ha inventato la composizione appunto nel secondo dopoguerra, la composizione d'avanguardia, la scrittura d'avanguardia insieme a Berio e a Nono, Stockhausen è uno anche che è arrivato, pur polemizzando con i concretisti francesi, che erano un po' più tra virgolette giocherelloni appunto con il mixer attraverso i rumori concretisti, ma prima appunto citavo Immelmann, ma anche addirittura arrivando all'improvvisazione sempre composta, cioè nel senso che poi la scrittura finale di Stockhausen è comunque una scrittura ovviamente eccezionale, insomma va da sé, ma soprattutto una scrittura anche che è definita anche in maniera molto molto netta, forse anche da ciò insomma il grande timore reverenziale rispetto al grande compositore tedesco, ma che, come sentiremo adesso, tra l'altro con personaggi come Michel Portal, che era un in quegli anni, a fine degli anni 60, uno dei più radicali potremmo dire jazzisti, se abbiamo capito insomma bene e sono riuscito insomma a far distinguere bene qual era la musica creativa improvvisativa europea di quel periodo rispetto ovviamente a una musica creativa che prendeva le forme libere anche appunto in America attraverso Braxton, appunto prima citavo Art Ensemble Chicago eccetera eccetera, insomma personaggi assolutamente eccezionali, che arrivarono addirittura appunto a essere riflettuti da Carlyle Stockhausen. Ricordiamo anche un altro episodio eccezionale, quando Stockhausen andò a vedere San Ra e disse i primi 20 minuti della performance di Stockhausen, mi è sembrata una tra le musiche più libere, più incredibili di sempre, poi dopo diventò jazz, ma appunto i primi 20 minuti furono assolutamente scioccanti anche per appunto il grande Carlyle Stockhausen, quindi anche in termini proprio di capacità di capire quello che stava avvenendo, Stockhausen l'ha sempre avuta. E poi dagli anni 70 in poi, dalla seconda metà degli anni 70, si è chiuso insomma nella sua grande aurea, ma per molti aspetti se lo poteva anche permettere, ma fino appunto a quel momento ebbe modo sia appunto di sviluppare quello che è stato appunto uno dei momenti più importanti attraverso la trattazione del concretismo e quindi la composizione data da elementi concreti, dall'utilizzo creativo del mixer, e come appunto l'improvvisazione che porta dentro Intensitat con Michel Portal e tra l'altro Vinko Klobogar, che veniva da le esperienze con Nono e soprattutto con Berio, e come allievo appunto di Luciano Berio, e poi appunto tutta la composizione di Klobuchar, che è una composizione che si stacca diciamo dai grandi maestri dell'avanguardia, della seconda avanguardia, della nuova avanguardia, quindi i già citati appunto Berio, Stockhausen, Pusser eccetera, insomma. In questo Intensitat appunto sentiremo una natura quasi improvvisativa che riesce a trattare canalizza in maniera assolutamente appunto sua Stockhausen, tanto appunto per fare capire a che punto le musiche creative stavano creando appunto quel grande sconquassamento che porterà veramente a una sorta di terremoto musicale, anche appunto dal rock, quello forse anche più così diretto, a quello che poi potremmo considerare invece la composizione, la grande composizione appunto della della neoavanguardia. Karlheinz Stockhausen appunto con Intensitat insieme a Michel Portal e a Vinko Klobokar. Thank you. Beh, composizione direi insomma tra le più importanti e tra le più particolari, tra l'altro appunto di Karlheinz Stockhausen, includendo dei giovanotti appunto come Michel Portard, che prima di diventare jazzista anche piuttosto raffinato, forse fin troppo raffinato, beh, era un giovane piuttosto selvaggio in terra insomma di improvvisazione libera. In questo caso c'era anche il compositore molto giovane Klobuchar, che tra l'altro è sempre per trovare quelle strane forme insomma di vita altrove, sarà anche insomma maestro di Diamanda Galas e insomma le prime note stridenti vocali la Galas appunto le donerà appunto a Klobuchar, che era dentro Intensitat appunto di Karlheinz Stockhausen. Ma andiamo proprio a trovare il giovane Michel Portal, quando insomma furente è assolutamente allucinato, insieme tra l'altro a un tedesco come Joachim Kuhn, che collaborava, e quindi qua anche un altro ponte con Braxton Art Ensemble of Chicago, tra le musiche appunto creative, davano un loro saggio di musica appunto fuori dai canoni, ma nel senso appunto di grande fantasia, di creatività veramente a tutti su tutti gli aspetti, con Our Meaning and Our Feeling appunto da parte di Michel Portale, Joachim Kuhn, franco tedesco, un'immaginazione appunto che prende strane forme anche asiatiche, sentirete una sorta di strano aria orientale che c'è dentro il pezzo. We'll be right back. Eh beh, Karlheinz Stockhausen appunto lavorava con personaggi come Michel Portal che facevano appunto queste musiche veramente con una forma assolutamente libera, anche qua l'improvvisazione o inizia improvvisazione, visto che c'è un altro tedesco, Joachim Kuhn, che lavora appunto in una maniera tra l'altro egregia con appunto Portal. Beh, la dice lunga appunto su come appunto poi il grande compositore fosse aperto poi in realtà più che appunto essere monolitico e appunto con quell'aurea di reverenzialità e quasi intoccabilità, inavvicinabilità che in realtà non è stato. E Portal tra l'altro con questo disco insieme a Kuhn fa uno dei grandi gioielli dell'arte appunto creativa post free, appunto quando le musiche del free si stavano trasformando in musiche creative a tutti gli effetti, quando l'improvvisazione veramente informava un po' tutte le musiche che si volevano spostare altrove, e omaggiando quindi in chiusura di questa improvvisazione und composition uno dei defunti del 2016, forse il primo grande, visto che ci ha lasciato il 3 gennaio del 2016, facciamo un omaggio a Paul Bley, che nei primi anni 70 sperimentava con l'improvvisazione attraverso il synth, con la vocalità tra l'altro di Annette Peacock, una delle altre grandi cantanti legate all'improvvisazione e poi anche al vocalismo proprio creativo. Prima abbiamo citato la Galas, e la Peacock diciamo che è una sorta di fatemi passare la cosa, anche se qualcuno magari rischia anche un po' di storcere il naso, di Galas del mondo jazz improvvisativo. Fatemela passare. E qua appunto con Blake, che comunque in solo in questa improvvisazione appunto fa della musica improvvisativa col synth, un altro dei grandi momenti appunto di quella grande stagione che non è ancora affatto chiusa, appunto dello scrivere attraverso la musica improvvisata, di creare appunto musica attraverso questa attitudine, questo atteggiamento, questo nuovo modo appunto di comporre. Vi lascio appunto a Bley, al suo improvvisazione per synth, e vi rimando al prossimo mercoledì appunto per gli auguri del Santo Natale, come dicevo all'inizio della trasmissione, e ringrazio l'ospite silente di questa sera di 451 frammenti sonori, e chiaramente ringrazio a voi che mi avete ascoltato, ci avete ascoltato o ci ascolterete, quindi anche una sorta di così lancio in futuro. Ciao, alla prossima.